Storie italiane. Il povero calzolaio. C'era una volta, nella città di Arasar, un povero calzolaio di nome Bram. Bram lavorava tutto il giorno per guadagnare il più possibile per mantenere la sua famiglia e mangiare qualcosa di decente, ma rimaneva sempre con pochissimi soldi. Un giorno, mentre Bram stava riparando delle vecchie scarpe, un uomo gli si avvicinò. Era un uomo alto e misterioso, con indosso un cappello e un impermeabile. Ciao, amico. Vorrei lucidare le scarpe. Non ho soldi, ma devo andare in un posto molto importante immediatamente. Il calzolaio esitò, poiché non aveva guadagnato una sola moneta in tutto il giorno, ma poi accettò di aiutare l'uomo. Certo, signore, ti aiuterò. Per favore, siediti e metti il piede sul cavalletto. L'uomo si sedette e Bram lucidò le sue scarpe alla perfezione, lasciandole brillanti e scintillanti come l'acqua sotto un cielo oscuro. Fatto, signore. Bravissimo, amico mio. Credimi, ti ricompenserò abbondantemente per questa buona azione. Sono un mago. Vivo vicino al cottage ai margini del bosco e devo incontrare maghi molto importanti di Senali. Mi hai fatto un grande favore. Il mago schioccò le dita e con un'esplosione di fumo apparve improvvisamente una capra davanti al calzolaio. Bram fu sorpreso. Questa è una capra magica. Tutto quello che devi fare è dire: capra, scuotiti e portami fortuna. E ti troverai di colpo con un mucchio di monete d'oro. Detto questo, il mago scomparve in lontananza. Wow, devo provare subito. Capra, scuotiti e portami fortuna. E la capra si scosse facendo cadere monete d'oro sul pavimento. Il calzolaio ne fu stupito. Oh cielo, l'uomo è stato fedele alla sua parola. Andrò a casa per dirlo subito alla mia famiglia. Bram raccolse i suoi attrezzi, si mise la capra sulle spalle e con grande gioia si diresse verso casa sua. Mentre camminava, passò accanto a casa della sua zia Ingrid vicino al campo. Lei lo vide camminare con la capra sulle spalle e lo chiamò. Ehi, Bram! Vieni a sederti con tua zia, vieni! Pensò fra se stesso se doveva andare a sedersi con lei, mentre invece voleva correre a casa per dire a sua moglie della capra magica. Bene, ho sete e sono stanco di camminare con questa capra sulle spalle. Forse potrei prendere una tazza di tè e poi tornare a casa. Bram salì a casa di sua zia, le consegnò la capra e prima di entrare disse: qualunque cosa tu faccia, non dire le parole capra, scuotiti e portami fortuna. Bram si sedette e aspettò che sua zia gli portasse del tè. E mentre aspettava, Ingrid si domandò perché suo nipote le avesse detto di non dire quelle parole. Andò in cucina, dove era custodita la capra, e vi si avvicinò e pronunciò le parole magiche. Capra, scuotiti e portami fortuna. E immediatamente la capra si scosse e le monete d'oro caddero a terra. Oh cielo, questo mi sarà molto utile. Dovrei trovare un modo per ingannarlo. Ingrid mescolò alcune erbe nel tè e lo servì a Bram. Questo lo fece addormentare immediatamente. Non appena il calzolaio si fu addormentato, Ingrid sostituì la capra magica con una delle sue. Il mattino seguente, Bram prese la capra sulle sue spalle e tornò a casa. Quando arrivò a casa, mise la borsa di monete d'oro di fronte a sua moglie. Ecco, prendi queste monete d'oro, così potrai preparare un buon pasto per noi oggi. Sua moglie era così felice che non si chiese nemmeno da dove provenissero le monete d'oro. E se ne andò al mercato. Dopo un po' di tempo, decise di usare le parole magiche per ottenere altre monete d'oro dalla capra. Recitò le parole che il mago gli aveva detto, ma la capra giaceva immobile come una roccia. Questo è strano, perché non funziona? Ripeté le parole magiche, ma fu tutto inutile, poiché la capra non sussultò neanche. Dovrò accontentarmi delle restanti monete d'oro. E quando saranno finite, andrò a trovare di nuovo il mago. Dopo alcuni giorni, sua moglie iniziò a ripetergli di tornare a lavorare perché le monete d'oro erano quasi finite. Così iniziò a cercare il mago. Alla fine trovò la casa del mago. Entrò e parlò con il mago e gli disse che doveva nutrire la sua famiglia. Il mago era un uomo compassionevole e mise una mano sulla spalla del calzolaio e disse: «Non ti preoccupare, amico mio, ecco un pano magico. Stendilo tra le tue braccia e di: oh pano magico, stenditi e facci banchettare. E un tavolo pieno dei cibi e delle bevande più variegate comparirà di fronte a te». Bram fu contentissimo nel sentire ciò che il mago aveva detto. Lo ringraziò e se ne andò per tornare a casa. Mentre Bram stava tornando a casa dal bosco, raggiunse il campo dove stava sua zia e decise di andare a condividere un pasto del panno magico. «Stavo passando, e dato che sei stata così gentile da servirmi un po' di tè l'ultima volta, ho pensato che sarebbe stato bello restituire il favore e portarti del cibo». «Oh, che bello! Vieni dentro!» E così Bram entrò e stese il panno magico tra le sue braccia e disse: «Oh, panno magico, stenditi e facci banchettare!» E in pochi istanti un bellissimo tavolo apparve davanti a loro, pieno dei cibi più deliziosi. Zia Ingrid fu sbalordita e, nonostante il suo gesto gentile, decise di ingannare di nuovo il calzolaio e mescolare le erbe nel suo cibo. Si sedettero e mangiarono finché non ebbero soddisfatto la loro fame e goduto del banchetto reale. Presto il calzolaio si sentì assonnato ancora una volta e, mentre dormiva, sua zia sostituì il panno magico con uno normale, ingannandolo ancora una volta. Il giorno successivo, Bram tornò a casa, stese il panno tra le mani e recitò l'incantesimo. Questa volta l'incantesimo non funzionò e il calzolaio rimase in piedi come uno spaventapasseri nel mezzo della stanza. Sua moglie lo guardò, chiedendosi se la povertà lo avesse fatto impazzire, e se ne andò. «Questo non può essere! Sono sicuro che mia zia mi sta prendendo in giro!» Bram se ne andò e tornò di nuovo a casa del mago. Spiegò al mago tutto quanto e lo supplicò di aiutarlo ancora una volta. Essendo un uomo compassionevole, il mago accettò di farlo e disse: «Fai come ti dico e prendi questa piuma magica. Sulla via del ritorno, visita la tua zia e dille che questa piuma soddisferà tutti i desideri del suo cuore. E dille di recitare questa formula: oh piuma magica, esaudisci un desiderio, e immediatamente la piuma inizierà a solleticarla fino alla fine». «Oh, grazie, gentile signore». «E ricorda, puoi fermarla solo dicendo: piuma magica, il mio desiderio è esaudito, e il solletico si fermerà». Bram ringraziò ancora una volta il mago e se ne andò per tornare a casa di sua zia Ingrid. Andò a casa di sua zia vicino al campo e le raccontò della piuma magica. Immediatamente la donna si innamorò del trucco del calzolaio e recitò l'incantesimo: «Oh piuma magica, esaudisci un desiderio!» La piuma fluttuò nell'aria e improvvisamente iniziò a solleticare la donna. Zia Ingrid rise e ridacchiò finché non riuscì più a sopportarlo. «Smettila! Per favore, fermati! Non posso sopportare il solletico più!» «Mi fermerò solo a una condizione». «Ti darò tutto quello che vuoi». «Bene, allora. Per favore, restituiscimi ciò che è mio di diritto e dammi la capra magica e il panno magico». «Va bene, va bene. Sono entrambe in cucina». E così Bram corse in cucina, prese il panno e si mise la capra sulle spalle. Uscì dalla cucina e disse: «Piuma magica, il mio desiderio è stato esaudito». E la piuma magica ruotò attorno a lui, facendolo scomparire magicamente, riportandolo a casa sua. Raggiunse casa e mostrò a sua moglie la capra e il panno magico. Sua moglie ne fu felicissima e l'abbracciò immediatamente. Più tardi si sedettero e banchettarono con il loro sontuoso pasto e discussero dei modi per usare appieno la capra e il panno. Usarono le monete d'oro per costruire la sua attività di calzolaio e spesero la maggior parte delle monete d'oro per aiutare i poveri della città. E per quanto riguarda sua zia Ingrid, la piuma continua a comparire nella sua casa dal nulla e la costringe ad aiutare i poveri e i bisognosi che una volta ha ingannato.